24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Listini europei ieri in caduta libera, scatenati dalla Grecia che ha annunciato un referendum popolare sulle misure di austerità di bilancio appena negoziate in cambio degli aiuti di Unione Europea e Fondo Monetario. In bilico tutte le difese anticrisi sui debiti pubblici da poco faticosamente creati. Il referendum greco mette a repentaglio la stessa stabilità finanziaria dell'area euro, ha avvertito l'agenzia di rating Fitch. A zavorrare i listini ancora una volta i forti cali delle banche, malissimo quelle francesi. Zeppe i titoli greci, italiani e spagnoli, giù le banche anche a Milano, la piazza peggiore. Il referendum sul piano di salvataggio greco manda a picco i listini. A Milano, che nelle ultime due sedute ha bruciato tutti i guadagni di ottobre, ieri il FTSE MIB ha perso il 6,8% e l'All Share il 6,1%. Per Piazza Affari, maglia nera europea, Francoforte infatti ha perso il 5%, Parigi il 5,2% e Londra solo il 2,2%, è stata la peggior seduta di sempre dal crack di Lehman Brothers, quando tracollò dell'8,2%. Giornata shock per i titoli bancari con Intesa San Paolo e Unicredit che sono crollati rispettivamente del 15,8% e del 12,4%. Per entrambi è stata la peggior seduta di sempre. A Piazza Affari si sono invece salvate soltanto le utility con Enel Green Power che ha ceduto l'1,5%, chiudendo a 1,66 euro, miracolosamente sopra il prezzo del collocamento in borsa avvenuto un anno fa. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. E ha segnato ulteriori ampliamenti lo spread, cioè il differenziale di rendimento tra BTP italiani a 10 anni e Bund tedeschi, che ha raggiunto quota 455 punti base, toccando il massimo storico dopo l'allarme lanciato da Fitch. A questo punto il BTP italiano a 10 anni rende il 6,40%, un record mai toccato da quando esiste l'euro. Basti pensare che la soglia del 7% del rendimento è considerata quella del non ritorno, quando cioè un paese non è più in grado di ripagare il suo debito. E l'Europa cerca di correre ai ripari. Oggi, prima della cena di benvenuto al G20 di Cannes, è in programma un prevertice tra Germania, Francia, Unione Europea, Fondo Monetario e il premier greco Papandreou, al quale, si apprende, i leader europei diranno che non c'è alternativa al pacchetto di misure negoziato in cambio del salvataggio e che l'Europa non può aspettare l'esito del voto a gennaio. Al prevertice non ci sarà Berlusconi, rientrato in Italia proprio per il precipitare della crisi sui mercati. Sentiamo riguardo Romano Prodi ai microfoni di Radio 24. Sarkozy e la Merkel sono stati, secondo me, diabolici in questi mesi, perché rendendo l'Europa da un'Europa comunitaria in Europa intergovernativa, si rende conto che ormai noi abbiamo accettato il prevertice, che detta tutto, poi un prevertice per modo di dire, perché è un prevertice in cui lei detta le regole e lui fa la conferenza stampa, insomma si usa una simmetria contro l'Italia che fa spavento, però è come sparare sulla Croce Rossa. Il ministro dell'economia è latitante, aveva acquistato una certa serietà internazionale, una certa fiducia, e negli ultimi tre mesi ha rovinato tutto. Tutto questo appunto per la sorpresa greca, cioè il referendum annunciato da Papandreou. Sentiamo l'analisi di Vittorio Darol del Sole 24 Ore. È una assolutamente un fulmine a ciel sereno, anche se se ne parlava, ma tale è l'autorità, ne ha parlato il primo ministro, che a questo punto la questione è effettivamente decisa. Cosa può succedere? La speranza è che sia stato usato semplicemente per far pressione su Berlino o Parigi, per in qualche modo aumentare quello che l'Europa fa per crescere, cioè per aiutare la crescita, perché oggi ci sono solo tagli, ci sono solo sacrifici per i greci, e quindi in questo momento il piano non è molto popolare evidentemente in Grecia. L'altro elemento è un elemento interno. Il partito di opposizione, il maggior partito opposizione, il Neodemocrazia conservatore, chiede costantemente il ricorso a elezioni anticipate e si oppone anch'esso al piano. Ecco perché probabilmente Papandreou ha voluto stanare in qualche modo la opposizione e costringerla a un governo di emergenza di unità nazionale, oppure a dire beh, in questo caso ci sarà necessità di un intervento maggiore. E infatti il Samaras è andato dal presidente a chiedere elezioni e non il referendum. Intanto diverse migliaia di persone hanno iniziato a sfilare lungo le strade di Nizza per chiedere maggiore giustizia sociale, una protesta che precede di due giorni il G20 G20 di Cannes, distante 30 km e dove sono già stati schierati 12.000 poliziotti. Cortei anche in altre capitali europee. A Londra, per allentare la tensione, le autorità hanno deciso di rinunciare allo sgombero della tendopoli degli indignati sul sagrato della cattedrale di St. Paul. E ieri intanto a Francoforte l'insediamento di Mario Draghi alla guida della BCE. Alessandro Merli. Credo che Draghi non potesse augurarsi una giornata peggiore per cominciare il suo lavoro alla BCE. Abbiamo ricordato sul giornale che Trichet ha avuto 4 anni di relativa calma dopo il suo insediamento, prima di dover cominciare ad affrontare turbulenze e difficoltà. Draghi entra subito vivo di una crisi che probabilmente è la peggiore degli ultimi decenni, sicuramente la più grave dalla nascita dell'euro. L'uomo è conosciuto per avere dei nervi saldissimi, dei nervi d'acciaio, e ne avrà sicuramente bisogno perché l'inizio sarà difficile. Intanto giovedì c'è la prima riunione di consiglio presieduta da lui, in cui si dovrà decidere se mantenere i tassi invariati come sembra oppure cominciare ad abbassarli, perché l'economia europea è in rallentamento anche molto forte e molti osservatori, molti economisti ritengono che stia già entrando in recessione. Poi c'è la questione dell'acquisto di titoli del debito pubblico sui mercati, che ha contribuito quantomeno a evitare la catastrofe sui titoli soprattutto dell'Italia ma anche della Spagna, però è stata anche una misura estremamente controversa all'interno della stessa BCE, ha portato a dimissioni, c'è tuttora un'area del Consiglio capeggiata dai tedeschi che è contraria. Quindi le sfide di Draghi, anche quelle immediate, sono molto pesanti. L'uomo ha tutte le capacità per affrontarle, ma la BCE in certi momenti sembra essere l'unica istituzione europea che funziona veramente e non sempre può fare da supplente quando tutte le altre funzionano male o non funzionano affatto. 5 mosse per salvare l'euro con più Europa è la ricetta del Sole 24 Ore. Sentiamo Enrico Brivio. Muoversi verso un vero governo economico dell'Europa, che fu sempre l'obiettivo fin dai tempi quando Azeglio Ciampi, l'emerito presidente, era il ministro delle finanze che ci portò nell'euro, perché non si può avere una moneta senza un vero governo. Poi che questo prenda la forma di un super commissario europeo per il momento o di un ministro delle finanze europee come propone Trichet, resta da vedere, però muoversi in questa direzione. Poi estendere il mandato della BCE perché abbia lo stesso potere che ha la Fed di intervenire sui mercati e anche di avere tra gli obiettivi principali la crescita, non solo la stabilità dei prezzi, e questo però richiederà una modifica dei trattati. Poi 2 misure che avrebbero un impatto sulla crescita, cioè gli Euro Project Bond, cioè gli Euro Bond di tipo classico per raccogliere finanziamenti per opere infrastrutturali, e invece gli Euro Union Bond, diciamo gli Euro Bond che, come sappiamo, sarebbero in parte garantiti o dai governi nazionali o dal fondo europeo, per permettere anche ai paesi più in difficoltà di avere delle emissioni con dei costi di rifinanziamento limitati. Infine, un mercato unico bancario, cioè superare quelle divisioni che ancora esistono sul mercato europeo e che impediscono alle banche di finanziarsi sui mercati stranieri, e quindi di creare un vero mercato unico del credito con la possibilità anche di benefici nei tassi per imprese e per consumatori. Israele fermerà temporaneamente il trasferimento di fondi all'autorità nazionale palestinese dopo l'adesione all'UNESCO. Intanto si apprende che anche i siti palestinesi saranno patrimonio dell'umanità. L'altra sera il voto storico dell'UNESCO che ha detto sì all'ingresso della Palestina. Spaccata l'Europa, prevedibile, ci ha detto Ugo Tramballi del Sole 24 Ore. L'Europa era già spaccata sin dall'inizio, tutti quei paesi che appunto si avevano deciso di astenersi, quelli che erano membri del Consiglio di sicurezza che avevano deciso di astenersi, avevano dimostrato un po' la non disponibilità a stare completamente al 100% dalla parte degli Stati Uniti, come invece ha fatto la Germania, ma la Germania lo ha sempre fatto, anche se in realtà è uno dei migliori amici dei palestinesi. La Germania lo ha sempre fatto per una questione storica, la Germania non si pone mai per tradizione, per principio, mai contro Israele. Però sì, era piuttosto previsto. L'Italia anche ha una posizione, tra l'altro, storicamente di apertura nei confronti dei palestinesi, al tempo stesso di grande amicizia con Israele. E la Francia gioca, dopo il grande successo, il suo personale successo in Libia, gioca probabilmente ancora per ricucire e allargare i suoi rapporti col mondo arabo. Voltiamo pagina. Al via ieri a Londra un'importante conferenza sul cyberspace in cui si parla anche di pirateria informatica, e proprio alla vigilia della conferenza è stato scoperto un nuovo attacco a decine di aziende americane che operano nel settore chimico e in quello della difesa. Sarebbero 48 le società prese di mira da un virus informatico progettato per rubare informazioni sensibili come formule chimiche o dettagli sui processi produttivi. Aziende con sede negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che lavorano su componenti chimiche e materiali avanzati che vengono utilizzati in ambito militare. Lo spionaggio industriale e digitale individuato dai laboratori di Symantec va avanti da mesi e sarebbe riconducibile a un sistema di computer controllato dalla Cina. Proprio Pechino, assieme alla Russia, è il principale punto di origine degli attacchi informatici in tutto il mondo contro aziende e siti governativi. Alla vigilia di un'importante conferenza sul cyberspace e cybercrime che inizia oggi a Londra, i servizi segreti britannici rilanciano un allarme che vale per molti paesi occidentali. Il Regno Unito è stato oggetto di un inquietante numero di cyberattacchi, tanto che la sua prosperità economica sarebbe a rischio. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadore in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.